Buonasera, vogliamo alzarci in piedi? Saluta almeno tre persone che a prima vista ti sembrano particolarmente simpatiche e belle questa sera, ok? Le altre scartale, tre persone che sono particolarmente belle e simpatiche questa sera. Bene, bene, bene, bene, sono contento perché evidentemente avete trovato più di tre persone che vi sono belle e simpatiche questa sera. Possiamo accomodarci? Ho visto anche qualcuno che non si è mosso proprio di un centimetro, eh? Evidentemente quella persona non ritiene che ci sia nessuna buona persona, bella persona, simpatica persona nei paraggi. Ciò che mi preoccupa ancora di più è che nessuno è venuto a salutare me, quindi vi ringrazio perché non mi ritenete bello simpatico. Scherzo. Ieri era il mio compleanno, per chi non l'avesse. Grazie, grazie. A un certo punto, quando si raggiunge una certa soglia. Quando si raggiunge una certa soglia, diventa un po' scomodo celebrare il compleanno, vero? Quanti sono d'accordo con me? Però io voglio, cara in prima fila, che fra qualche giorno farà 30 anni, quella è la soglia. Però io voglio assicurarvi una cosa, che i miei capelli non sono così bianchi come si vede da lì e soprattutto come li vedete da questo schermo. Vi assicuro che sono le lampade, dobbiamo cambiarle urgentemente, Vito Marinelli. Cambiamo le lampade, sono troppo bianche. C'è un verso, andiamo alla parola di Dio, ok? Vangelo di Marco, questi versi stanno negli ultimi giorni continuando a tartassare i miei pensieri e la mia meditazione. E se c'è un consiglio che posso darvi, già ho dato a diversi di voi, è quando leggi la parola di Dio, quando leggi la Bibbia, leggila lentamente, molto lentamente, non nel senso leggine poca, no? Leggine tanta, ma leggila lentamente, perché quello che la parola di Dio ha da trasmetterti è qualcosa di straordinario, talvolta anche con una singola semplice parola. E io voglio condividere con voi quello che è questa fotografia che il Signore mi ha mostrato attraverso questi versi, la fotografia di un momento storico, di un momento storico per la storia dell'umanità, di un momento storico per i discepoli di Dio, per un momento storico anche per Gesù stesso. E si trova in Marco 16, quindi siamo alla fine del Vangelo e siamo proprio all'atto della risurrezione di Cristo. E dal versetto 9 noi leggiamo che Gesù, potete seguirmi leggendo dallo schermo alle mie spalle, or Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, Gesù è risorto la domenica, il primo giorno della settimana, il motivo per il quale noi ci riuniamo oggi. E la domenica è diventato un giorno festivo per noi, è perché Gesù è risorto di domenica. E prima era il sabato invece il giorno festivo, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Questa andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. In questa immagine che l'Evangelo di Marco, ci mostra, noi troviamo i discepoli, gli 11 discepoli di Gesù, come mai nella narrazione si trovano in una condizione di tristezza. Perché Se proviamo ad immaginare quello che i discepoli stanno vivendo in questo momento, ci rendiamo conto che quelle due paroline, cordoglio e pianto, hanno una pesantezza in sé enorme. Questi sono i ragazzi, perché giovani erano, della mia età circa, tutti e 11 che hanno seguito il loro maestro, il loro signore, colui che ha cambiato la loro vita, non solo per i 3 anni trascorsi fino a quel punto, i discepoli hanno vissuto letteralmente camminando sospesi per aria, perché quello che hanno sperimentato è che dovunque loro andassero, con il loro maestro, con il loro amico anche Gesù, le cose cambiavano. Quando Gesù entrava in un villaggio, il villaggio ne era sconvolto. Tutti i malati che venivano presentati a Gesù venivano guariti. C'erano persone che erano zoppe dalla nascita ed erano guarite all'istante per il tocco, per l'intervento, per la parola che Gesù pronunciava su quegli zoppi. Ciechi che recuperavano la vista, addirittura c'erano persone morte. Gesù si è ritrovato ad assistere a un funerale, a incrociare un funerale e a non accettare quella condizione di morte e a chiamare il ragazzo che era morto e a portarlo in vita. Non solo lo ha fatto con lui, lo ha fatto in altri episodi, con altre persone di diversa età. Gesù ha risorto i morti. Dove Gesù andava, quello che i discepoli sperimentavano era una continua vittoria. Se c'era una tempesta, Gesù si alzava in piedi e metteva a tacere i venti e il movimento delle acque. Se c'era mancanza di cibo, pensate un po', noi in questa sala siamo scarsi 300 persone. Gesù si è trovato davanti a una folla di 5.000 uomini, quindi noi possiamo benissimo pensare che oltre agli uomini, perché guardatevi attorno, le donne sono sempre più numerose, c'erano un numero almeno doppio, no? Almeno altrettante donne erano presenti in quel luogo. Quindi se 5.000 erano gli uomini, probabilmente la folla che era lì presente era di 10.000, se non oltre persone, tutte che avevano bisogno da mangiare. E quello che Gesù fa è che prende 5 pani, 2 pesci e nelle mani di questi stessi discepoli che noi leggiamo qui che piangono e fanno cordoglio, questi pani si moltiplicano in modo tale da sfamare tutti e appunto tale da avere del cibo che avanzava, 12 veste, 12 ceste. Provate a immaginare lo stato d'animo di questi 11 discepoli e amici di Gesù Cristo. In lui avevano completamente rimesso la loro vita, la loro sorte, il loro futuro. Era troppo entusiasmante stare con Gesù e in lui avevano trovato la risposta ad ogni cosa, a ogni problema sociale, ad ogni problema politico. Infatti, quando Gesù è entrato a Gerusalemme, lo hanno celebrato come il re di Israele, perché nella loro mente Gesù sarebbe diventato quel re che avrebbe liberato il popolo di Israele anche dall'oppressione dei romani che erano in quel momento che opprimevano il popolo di Israele. Quindi sotto ogni punto di vista i discepoli vedono in questa immagine, in questa fotografia che abbiamo appena letto in questi versi, svanire una speranza enorme. Tutto muore quando Gesù muore. Ogni loro sogno muore. Ogni loro speranza, e in più a questo va aggiunto che in loro nasce un terrore, una paura, un'angoscia di uscire da quella stanza, perché sanno che se il loro maestro è stato ammazzato, anche loro potevano benissimo morire. Provate a immaginare quanto queste due parole avevano peso e prova anche a immedesimarti nello stato d'animo dei discepoli, e probabilmente questo è il tuo stato d'animo questa sera, forse non in tutte le aree della tua vita, ma forse c'è qualche area nella tua vita dove tu ti senti rammaricato, tu ti senti deluso, tu senti che una speranza è morta, senti che non c'è più vigore e c'è una forma di cordoglio e di pianto, c'è un lamento dentro di te. La cosa assurda di questa immagine e di questi versi che abbiamo letto è che Gesù era morto, ma nell'istante in cui i discepoli piangevano e facevano cordoglio, proprio in quel momento, se fosse un film, no? Potremmo immaginare una telecamera che mostra la stanza, come ve l'ho descritta, con tanto dolore, con tanta sofferenza, con tante lacrime, con tante parole negative, E poi un'altra telecamera che mostra un'altra scena. Ed è Gesù, quello stesso Gesù che viene pianto in questa stanza, invece vivo, è risorto, è potente, ha vinto sulla morte, ha vinto sul peccato, ha trionfato su quella che era la condanna che gli è caduta addosso e si è mostrato, si è rivelato e ha mostrato il fatto che la morte non lo poteva trattenere. E questa cosa mi ha sconvolto, perché questa è l'immagine perfetta di come purtroppo molti cristiani vivono. Molti cristiani vivono nella consapevolezza che Gesù è morto ed è risorto, ma in realtà vivono ancora quel cordoglio e quel pianto perché non credono fermamente e con ogni convinzione che Gesù è realmente vivo. Non credono con ogni forza e con ogni convinzione che quel Gesù è sceso dalla croce ed è cammina ed è vigoroso ed è capace di fare le cose che faceva qualche giorno prima. Purtroppo l'immagine che mi è venuta in mente è della mia vita, dove in alcuni aspetti, in alcune aree, sebbene io credo che Gesù è vivo, questa sua resurrezione non è viva dentro di me. Questa convinzione non è viva dentro di me. E questo è triste, è quella che descrivo come apatia spirituale, no? Noi viviamo in un'apatia spirituale dove sì, in fondo crediamo, sì, Gesù è vivo, ma dentro di noi non c'è quella convinzione che ci muove ad agire di conseguenza. Il titolo che io ho dato a questo messaggio è Aggiorna il tuo stato, no? Per chi ha Facebook, sa che quando apri il tuo profilo, la prima cosa che puoi fare, ti viene suggerito di fare, è aggiornare il tuo stato, no? Di che cosa pensi, che cosa vivi, no? Ed è aggiornare quello stato da quello che può essere, no? In prima fila ci sono Antonio e Simona, e qualche mese fa loro hanno aggiornato il loro stato, no? Da essere single si sono aggiornati, hanno detto al mondo siamo fidanzati, ed è bellissimo, no? Giovanni sorride perché Gianni sorride in seconda fila perché poi c'è il matrimonio, no? E quando poi ti sposi aggiorni il tuo stato. Ora immagina se Simona, no? Che quest'anno si può dire, sì, annunciare, si può, no? Lo sapete tutti, tanto. Simona si sposa con Antonio, no? Ci sta un applauso a tutti e due, perché è una bellissima scelta, una bellissima decisione. Ora provate a immaginare che Antonio non abbia aggiornato il suo stato, no? E fosse ancora single, e si sposa. E un giorno Simona va da Antonio e dice: senti, ma il tuo stato su Facebook dov'è? E Antonio le dica: sono single. Quale potrebbe essere la reazione di Simona, no? Ma che single è single? Aggiorna il tuo stato, perché non solo sei fidanzato, ora sei sposato a me, sei legato per il resto della mia vita. Aggiorna il tuo stato. Questo è quello che è l'invito che io farei ai discepoli. Se fossi stato lì, ai discepoli che facevano cordoglio e pianto, e questo è l'invito che io sento di fare a noi questa sera come chiesa, aggiorniamo il nostro stato perché il nostro Dio è vivo. Aggiorna il tuo stato e passa da una condizione di lutto, di cordoglio e di pianto a una condizione di forza, di speranza viva, di certezza, di fede che quel Dio che ha operato miracoli 2000 anni fa è vivo oggi per fare gli stessi miracoli, anzi in questo istante lui sta facendo gli stessi miracoli ad una amplificazione, con un'amplificazione molto più grande per tutta la terra. Voi sapete che in questo istante Gesù sta salvando persone. A migliaia, a centinaia di migliaia si stanno convertendo a Cristo Gesù in questo istante. Sapete che in questo istante Gesù sta liberando e togliendo dalla prigionia persone che sono schiave dei vizi più brutti, della droga, dei vizi più che ci stringono e che ci tengono attanagliati in una condizione di morte. Sai che Gesù in questo momento sta guarendo persone dal cancro, sta guarendo persone da malattie terminali, le sta tirando fuori dagli ospedali. Sai che Gesù è vivo oggi e sta facendo più miracoli di quanto lui ne abbia fatti 2000 anni fa, perché 2000 anni fa era solo lui attivo, invece adesso è tutta la sua chiesa attiva in ogni parte del mondo. Sai che villaggi interi stanno venendo a conversione in questo istante mentre noi parliamo? Perché Gesù è vivo. E noi dobbiamo aggiornare il nostro stato e renderci conto che la nostra piccolezza, la nostra stanza buia, il nostro pianto, il nostro cordoglio non ha senso. E tu vivi in questa condizione perché probabilmente hai scelto di accettare una bugia e hai scelto di adeguarti ad una condizione che invece Gesù non vuole che tu viva. Se Gesù è vivo, come è vivo, la tua speranza è viva. Gesù è vivo, è la tua forza, quindi è viva. Gesù è vivo e quindi la tua potenza, la tua autorità di schiacciare Satana sotto i piedi è più viva che mai. Gesù è vivo e tu hai autorità di vivere e di trasmettere, di impartire guarigione per te stessa e guarigione per altri, miracoli per te stesso e miracoli per altri attorno a te, perché Gesù è vivo. Dillo alla persona che ti sta a fianco, Gesù è vivo ora. E ieri nel mio piano di lettura, perché io seguo un piano di lettura che mi permette di leggere la Bibbia in un anno, leggevo in 1 Corinzi, capitolo 15, questo verso. Ora il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio, che ci dà vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. E io ho voluto aggiungere questo verso per il messaggio di questa sera, per quanti questa sera credono che il peccato è più grande della potenza dello Spirito Santo in te che è capace di liberarti da quel peccato, per quanti questa sera credono che quel vizio è troppo grande per te, per quanti questa sera credono che quel legame è troppo grande per te, per quanti questa sera credono che quella montagna è troppo alta per te. Gesù è più grande, lui è vivo e ti sta chiamando ad uscire da quella stanza. Vogliamo leggere i versi che vengono dopo, dal versetto 11 leggiamo. E vorrei che noi ci rendessimo conto che la domanda non è se Gesù è vivo o è morto. La domanda è se tu ci credi a questo. Perché vedete, i discepoli erano nella stanza e piangevano e facevano cordoglio e avrebbero potuto rimanere in quella condizione se avessero continuato a credere quello che credevano. Non è la sua morte o non morte, la sua risurrezione o non risurrezione, perché quello che ha fatto Gesù l'ha fatto una volta per sempre e lui è vivo più che mai oggi, ma la differenza la fa quanto tu ci credi, quanto tu credi a queste parole. Per questo che voglio leggere questi versi che vengono dopo, perché noi leggiamo che essi, udito che egli viveva, ed era stato visto da lei, Maria Maddalena, si alzarono in piedi, asciugarono le lacrime, uscirono fuori da quella porta e incominciarono a predicare l'Evangelo, a guarire i malati, a portare, ad annunciare, a cercare e a trovare Gesù. No, non è quello che leggiamo, l'ho aggiunto io, mi state guardando perplesso, come dire. È un po' diverso il verso che leggo lì sopra. Essi, udito che egli viveva ed era stato visto da lei, non lo credettero. Dopo questo apparve in modo diverso a due di loro che erano in cammino verso i campi e questi andarono ad annunciarlo agli altri, ma neppure a quelli credettero. Poi apparve agli 11 mentre erano a tavola e li rimproverò. E Gesù li rimproverò perché non è possibile per Gesù essere vivo e entrare in una stanza dove si fa lutto per lui. Non è possibile per lui accettare una condizione di pianto e di cordoglio quando c'è da gioire e da far festa. Io spero che Gesù, guardando questa chiesa, possa trovare una chiesa che crede in un Gesù che è vivo, veda una chiesa che fa festa perché crede in un Salvatore che è potente oggi da fare miracoli e non che vede in noi quella stanza buia, oppressa, quel cristianesimo religioso e quell'abbattimento e quell'apatia spirituale che è dettata dalla bugia di Satana che ci vuole far credere che Gesù non è poi più così potente. E le cose che ha fatto 2000 anni fa, lui non è capace più di farle oggi. Perché? Perché è moribondo, perché è appeso ancora una croce, perché povero Gesù che ha sofferto quello che ha sofferto. No, Gesù è vivo e io spero che in questa chiesa lui possa trovare credenti che credono fermamente nel fatto che lui è risorto. Poi apparve agli 11, quindi dice il verso 14, mentre erano a tavola e li rimproverò. della loro incredulità e della loro durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano visto risuscitato. E Gesù non riprende, non è l'unica occasione dove Gesù riprende i suoi discepoli. Gesù riprende nel percorso che noi possiamo leggere nei Vangeli, riprende i suoi discepoli svariate volte. In più di un'occasione Gesù riprende i suoi discepoli per la loro mancanza di fede. Lo fa nella tempesta che prima accennavo. Quando si sono ritrovati nella tempesta, la Bibbia dice che loro ebbero paura, e paura per la loro vita, e Gesù disse: gente di poca fede, perché avete paura? E poi in un'altra occasione Gesù riprende Pietro, no? Quando comincia a camminare sulle acque. E poi, non lo so come, ma il Vangelo dice che lui ha visto il vento. Credo che abbia visto la circostanza che era attorno a lui, ha visto le onde, ha visto quanto fosse impossibile che lui camminasse realmente sulle acque. E ha cominciato a sprofondare, ha cominciato a cadere nelle acque e ha gridato: Signore, salvami. A quel punto Gesù lo ha preso, lo ha tirato fuori, ma lo ha rimproverato. Gesù ha rimproverato i discepoli in più volte, potrei elencarle tutte, ma non lo vado a fare, però quello che Gesù ha fatto anche è elogiare la fede. Gesù ha ripreso la mancanza di fede, ma ha elogiato anche l'abbondanza di fede. L'ha fatto per la donna cananea, no? Vi ricordate? Che va da Gesù con tanta umiltà, con tanta insistenza e si fa letteralmente, fisicamente, sempre più vicino a Gesù. Prima grida a distanza, poi c'è scritto nella Bibbia che lei si avvicina, si abbassa, lo adora, si avvicina a Gesù e crede fermamente che con l'umiltà, con l'insistenza e con quella fede che era dentro di lei poteva ottenere la liberazione per sua figlia. Gesù elogia il centurione. Il centurione che gli dice: Gesù, non serve che tu tocchi, non serve che tu venga fisicamente, non serve che tu impasti con la saliva il terreno, faccia qualcosa di particolare come hai fatto finora. Io credo che in te c'è la potenza, anche a distanza di guarire, e basta che tu dica una sola parola e la liberazione verrà, e la guarigione verrà. E Gesù ha elogiato quell'uomo per la tanta fede. Gesù riprende e Gesù elogia con un unico obiettivo: esortare ciascuno di noi a crescere nella fede, esortare i suoi discepoli a crescere nella fede. Non so se questa sera tu ti senti ripreso o elogiato. Io voglio elogiarti perché sei qui. E il fatto che tu sei qui è determinato da una fede che hai. Tu non sei qui, io non credo che nessuno di noi è qui perché siamo in un posto bello caldo, no? Sentite anche voi il freddo ai piedi. Io credo che nessuno di noi è qui perché abbiamo solo della bella musica e belle persone. Io non credo che siamo qui se non per il fatto che abbiamo fede in colui di cui leggiamo nella parola di Dio. Abbiamo fede nel fatto che Gesù è vivo oggi. Questo ci unisce. Questo ci riunisce e noi siamo qui per questo e io elogio questa tua fede. Ora so anche che Gesù vuole incoraggiare la tua fede perché la tua fede è la chiave per ogni successo, per ogni conquista, per ogni vittoria. E Gesù è qui che ti esorta ad avere maggiore fede. E Gesù è qui che permetterà nella tua vita che tu affronti la tempesta. E Gesù nella tua vita permetterà che ti arriva l'acqua alla gola. E Gesù permetterà che tu ti ritroverai in una stanza dove percepirai che lui è vivo, ma non lo vedrai fisicamente perché lui vuole stimolare la tua fede. Vi rendete conto che Gesù poteva benissimo presentarsi in quella stanza all'istante? Poteva benissimo dire ai discepoli: eccomi qua, sono risorto, sono vivo, non avete ragione di piangere e fare cordoglio. Ma quello che lui fa è presentarsi prima a una donna, poi a altri due discepoli, e quello che fa è: dice a queste persone, andatelo a dire ai discepoli, perché voleva stimolare la loro fede e voleva arrivare a quel punto che entrando in quella stanza lui potesse rimproverare per il bene loro. Quando Gesù rimprovera lo fa sempre per il nostro bene. E sappi questa sera, che lui è incessantemente interessato alla crescita della tua fede. E lui permetterà anche delle circostanze molto difficili nella tua vita. Le permetterà. Non ti tirerà fuori all'istante, non ti guarirà subito, non ti libererà subito, non ti tirerà fuori subito da quella circostanza. Non si presenterà subito nella stanza di dolore, di pianto e di cordoglio, ma è lì presente e ti vede, vuole il meglio per te. E sa che il meglio per te non è viziarti ad avere ogni cosa subito, ma è stimolare la tua fede, farti crescere nella dipendenza a Lui. E tu oggi puoi credere in un Gesù che è vivo e che è potente da fare esattamente le stesse cose che ha fatto 2000 anni fa. Io voglio sottolineare questo, perché io per me, per quest'anno, ho deciso che voglio credere in quel Gesù che è capace di fare miracoli. Io per me, per quest'anno, ho deciso che voglio credere in un Gesù che non voglio ridimensionare in base alle esperienze che ho avuto, no? Noi a volte abbassiamo il livello della nostra fede alla misura delle esperienze che noi abbiamo avuto con Dio, no? Io voglio alzare il livello della mia fede alla luce di quello che la parola di Dio mi dice di Gesù. E voglio che le mie esperienze siano trasformate dalla mia fede e non che le mie esperienze trasformino la mia fede, la ridimensionino. Io spero che questa possa essere la tua preghiera, il tuo desiderio per il 2015, che tu possa credere di nuovo in un Gesù che è capace di fare miracoli. Miracoli sotto ogni punto di vista, salvare i tuoi parenti, la tua famiglia, liberare te dalle schiavitù, dai vizi, le persone che ti sono vicine. Guarire da malattie, anche le più difficili. E sapete, a volte noi non ci avviciniamo troppo a questo messaggio di fede e un po' scansiamo la fede perché abbiamo un timore. Abbiamo il timore che la fede possa deluderci. Abbiamo il timore che se facciamo quel tipo di preghiera potremmo essere delusi dal fatto che Gesù poi non risponde a quella nostra preghiera. Che se io prego che lui guarisca la mia gamba, se poi lui non lo fa, io potrei rimanere deluso. Ma sapete, questa non è fede. E io vorrei che noi comprendessimo una linea sottile fra quella che è la distinzione fra fede e pretesa. La fede è alimentata da un senso di arresa. La fede è alimentata da un senso di adorazione. La fede è alimentata da una consapevolezza che lui è Dio. E che lui sa quello che fa. La pretesa è alimentata da un'arroganza. La pretesa è alimentata da un senso di giustizia propria, da un senso di io mi merito questo. E sapete, Gesù è eccezionale perché nella sua grazia e nella sua bontà lui addirittura risponde anche a quelle che sono le pretese di alcuni, perché è troppo buono. Non lo saprei spiegare altrimenti. Pensate a Tommaso. Tommaso ha detto, perché non c'era in quella cena, non c'era in quella circostanza quando Gesù si è rivelato, ha detto: se io non vedo e se io non tocco, non crederò. E Gesù nel suo amore ha visto questa pretesa e al posto di fare quello che benissimo poteva fare nei confronti di Tommaso, dire: ok, benissimo, hai questa pretesa nei miei confronti, io non mi mostrerò a te. Anche se tu dovessi stare con gli altri 11 discepoli, io sarò presente in quella stanza e tu sarai l'unico a non potermi vedere. Avrebbe potuto fare questo e Gesù è Dio. E invece lui, nella sua grazia, nella sua bontà, è andato da Tommaso, ha detto: ok, tocca qui, tocca qui e credi ora. E poi ha aggiunto: beati coloro che credono pur non vedendo. E questi siamo noi. E questo sei tu, questo sono io. Gesù ci sta chiamando a una fede che non vede. Perché la fede è certezza di cose che si sperano ed è dimostrazione di cose che non si vedono. Credere significa avere sicurezza e certezza di qualcosa che tu speri prima ancora che tu la possa vedere, perché la fede anticipa quello che andrai a vedere dopo. Qual è questa linea sottile? È la linea sottile della pretesa, che come ho detto, Gesù a volte anche risponde, anche in mezzo a noi. Io a volte mi arrabbio con Gesù e dico: Signore, ma tu hai visto l'atteggiamento di quella persona? Ma tu hai visto che neanche ti ha pregato poi più di tanto? Io ho pregato, digiunato, è da tempo che sto desiderando e tu non stai rispondendo a me e rispondi a lui. E lì è una lezione di umiltà, e lì è una lezione di fiducia da parte mia. Ma l'esempio di Tommaso è lì nella Bibbia non per essere seguito. È lì nella Bibbia per dimostrare la grazia di Gesù, il suo amore e la sua pazienza con noi. Ma il tuo esempio, l'esempio che tu devi vivere nella tua vita è l'esempio della donna cananea, che si umilia e che si lascia umiliare. Vedete, Gesù ha voluto talmente tirare fuori il massimo della fede di questa donna da chiamarlo cane, cagnolino. Io non posso dare quello che spetta alla casa di Israele, a te che sei un cagnolino. E perché l'ha detto? Perché stava cercando di tirare fuori il meglio da questa donna, stava cercando di tirare il massimo della fede perché sapeva, era Gesù, e sapeva esattamente dove sarebbe andata a finire questa storia e quale lezione avrebbe portato nei discepoli 2000 anni fa e ancora a noi oggi. Quando i discepoli hanno detto: cacciala via, cacciala via perché ci disturba e grida, Gesù invece ha risposto a lei. Ha dato possibilità a lei di parlare e ha alimentato la fede e lei si è avvicinata. Io vi invito ad andare a leggere questa storia. Questo è l'esempio di fede che noi dobbiamo vivere. È una fede che non pretende, perché la pretesa è quella che delude, ma è una fede che si arrende, è una fede che crede e che si appoggia ed è la fede di Sadrach, Mesach e Abednego. La conoscete quella storia? È la fede di questi tre ragazzi che dicono al re, che dicono: se voi non vi prostrate ora davanti alla statua, io vi butto nella fornace ardente, voi morirete e sarete puniti per questa vostra disubbidienza. E loro, tre ragazzi, che fanno? Rispondono: sappi questo, re, che il Dio che noi serviamo ci libererà dalla tua fornace ardente. Questa è fede. E anche se non dovesse farlo, questa è ancora più fede. Questa è ancora più fede, una fede umile, non è una pretesa. E anche se non dovesse farlo, noi non ci abbasseremo davanti alla tua statua. Questo è il cuore che Dio vuole da parte nostra, questa è l'attitudine che Dio vuole da parte nostra. Non hai avuto una risposta alle preghiere di Dio e sei rimasto deluso? Oh, rivedi il tuo cuore. Io ti prego che questa sera tu ti possa rendere conto che ciò di cui hai bisogno è di un vero e proprio ravvedimento. Tu hai bisogno di chiedere perdono a Dio per quell'attitudine sbagliata, per esserti arrabbiato con Lui, per aver preteso determinate cose, perché la pretesa non è fede e la pretesa ti allontana da Dio. La fede invece ti avvicina sempre a Dio. Vorrei che ci alzassimo in piedi. Io sono convinto che questa sera il Signore vuole tirare fuori molti di noi da uno stato di insicurezza, quella stessa insicurezza che i discepoli vivevano in quella stanza. Provate a immaginare quanto insicuri fossero, quanto deboli fossero. E Gesù li ha tirati fuori da lì. È quello che io prima citavo, che non era esattamente il verso, però poi loro l'hanno fatto. Loro si sono asciugati quelle lacrime. Loro si sono alzati in piedi. Loro sono usciti da quella stanza. Loro hanno conquistato il mondo e alla prima occasione utile, davanti al primo malato che hanno incrociato, hanno detto: argento, oro non ne abbiamo, ma nel nome di Gesù, nel nome di colui che è vivo, nel nome di colui che abbiamo visto fare miracoli e che ci chiama noi oggi a fare miracoli, alzati e cammina. E quello zoppo camminò. Gesù ti sta chiamando ad uscire dalla tua stanza di pianto e di cordoglio e di dubbio e di insicurezza per vivere quella fede piena in un Dio che è capace di fare miracoli. In quel Dio che ti dice: se hai fede, quanto un granel di senape, puoi dire a quella montagna: vai via, buttati a mare, allontanati da me. Io spero che questa sera, guardando alla tua montagna, guardando a quella circostanza difficile, tu possa appropriarti di questo tipo di fede. E dire: io credo in un Dio che è più grande, io credo in un Dio che è più potente, e io credo che in un Dio che è capace perché è vivo e non è rimasto morto. Lui è vivo e ti vede. E so che ci sono persone che sono in pianto, sono in lutto, sono in un'angoscia profonda. E Gesù è speranza per te. È speranza per rimettere in te un sorriso su quella faccia. È speranza per te per riprendere quel vigore spirituale al quale Lui ti ha chiamato. Perché tu non sei destinato a un'apatia spirituale, ma a un vigore spirituale che trasformerà la tua casa, la tua famiglia e tutto ciò che ti circonda. Dobbiamo chiudere i nostri occhi, abbassare il nostro capo. Io so che Gesù è qui. Io so che Gesù ha parlato al tuo cuore. E io voglio chiedere a quanti questa sera, con me, perché l'ho detto, è un messaggio che prima di tutto io vivo, con me dicono: io quest'anno voglio vivere a un livello di fede più grande. Io quest'anno voglio essere ripreso da Cristo. Io voglio essere ripreso quando manco di fede e elogiato quando ho quella fede. E quest'anno io voglio vivere in una condizione nel quale non mi faccio impaurire da nessuna tempesta, ma mi approprio di quell'autorità che è in Cristo Gesù di calmare ogni tipo di tempesta. Se tu sei quella persona, posso vedere la tua mano che si alza? Un segno di fede, lo fai davanti a Dio, non lo fai per me. Vedo tante mani che si alzano e noi avremo un grandioso anno davanti. Ne sono certo, perché Dio vuole operare attraverso questa Chiesa. Miracoli, guarigioni, opere potenti attraverso un popolo che crede e che non si fa abbassare, che non si fa sminuire, non si fa scoraggiare dal diavolo che vuole farci credere delle bugie. Gesù è vivo. Amen? E Gesù, io ti ringrazio per ogni mano che è alzata in questo luogo. Io ti ringrazio per ognuno dei nostri cuori che è arreso davanti a te. Noi vogliamo dirti questo: Gesù, noi crediamo nel fatto che tu sei vivo. Non vogliamo dubitare, non vogliamo mettere in dubbio questo in alcuna maniera, non vogliamo rimanere in una condizione di pianto e di cordoglio, non vogliamo rammaricarci, abbatterci dalle circostanze, ma vogliamo appropriarci di quella fede che ci fa alzare in piedi, ci fa asciugare le lacrime, ci fa uscire da quella porta per conquistare ogni territorio che tu hai già precedentemente destinato ad ognuno di noi. Padre, noi non vogliamo credere a questo fumo in faccia che il maligno cerca di buttarci addosso per limitarci, ma vogliamo credere nel fatto che tu sei il Dio vivente, che è onnipotente, ovvero che può ogni cosa e che ci libererà da ogni tentativo del maligno di abbatterci e demoralizzarci. Padre, io prego nel nome di Cristo Gesù affinché tu in mezzo a noi possa guarire. Io prego nel nome di Cristo Gesù tu affinché tu questa sera possa liberare coloro che si sentono in prigione, schiacciati da vizi, da peccati che vedono troppo grandi. Signore Gesù, io prego che tu possa tirare fuori ogni persona che in questo momento vede una montagna davanti a sé e non sa come spostarla. Metti tu la fede, Padre, e facci credere nell'impossibile, nel nome tuo santo. Grazie Gesù e gloria a te. Io voglio pregare per quanti, perché questa è una parte del messaggio che ho sentito molto forte per noi come Chiesa, per quanti questa sera sinceramente possono dire: io sono deluso, io sono rimasto deluso di Dio e mi rendo conto che la mia delusione non è per una mancanza di una risposta di Dio, ma è per una pretesa e un'arroganza che non avrei dovuto avere. Io voglio pregare per quanti questa sera dicono: io ho preteso che Gesù facesse quello che io gli dicevo di fare e la mia non era una vera fede, la mia non era una vera ricerca della sua volontà, la mia non era una vera umiltà come la donna cananea, ma la mia era un'arroganza, una pretesa ed era un mio volere essere Dio della mia stessa vita. Io voglio pregare affinché il Signore possa guarire questa sera, perché questa è la sua intenzione. Lui vuole guarire quella delusione, Lui vuole guarire quello scoraggiamento che è nato dentro di te. Sappi questo: la fede non delude mai. Credi nel Signore Gesù e credi con ogni forza, anche nei miracoli più grandi, ma non pretendere, non vivere nella pretesa. Se tu sei quella persona che dice: io voglio chiedere perdono a Dio, non voglio accettare più questa delusione nella mia vita, Io mi rendo conto che ho permesso alla pretesa di motivare le mie preghiere, di motivare le mie parole, ho parlato parole che non avrei mai dovuto dire nei confronti di Dio e nei confronti della sua potenza e del suo intervento nella mia vita, e voglio chiedere perdono per questo. Vogliamo chiudere di nuovo i nostri occhi, abbassare il nostro capo, e se tu sei quella persona, alza anche tu ora la tua mano. Io voglio pregare. Grazie Gesù, grazie Gesù per questa attitudine di umiltà, per questo ravvedimento, e grazie perché ci ami e guarisci in questo momento e togli quella rabbia dentro di noi che non deve esserci. Noi ci fidiamo di te Gesù, noi ci fidiamo dei tuoi piani e della tua perfetta volontà per noi, e se la tempesta deve durare ancora, noi vogliamo aggrapparci a te in fede e andare avanti, sapendo che prima o poi tu interverrai, e noi vogliamo dipendere da quel tuo intervento e non da una pretesa arrogante. Io prego per il sentimento di queste persone con le mani alzate, che tu possa cambiare quel sentimento che li ha allontanati da te in un sentimento che li avvicina a te. Io prego che loro possano in questo momento vivere pace con te, perdonare loro stessi per il loro peccato e riconoscere che tu sei quel Dio buono sempre. E noi questo vogliamo dichiarare questa sera. Tu sei sempre buono Dio, tu sei sempre buono Dio, e noi ti lodiamo questa sera e ti ringraziamo per la tua bontà. Perdonaci, guariscici e liberaci. Alleluia. Io so che c'è fede in questa chiesa per credere nei miracoli questa sera. Voglio chiedere quanti questa sera dicono: io voglio che Gesù intervenga fisicamente nella mia malattia. Forse è una malattia piccola, forse è una malattia grande, e Gesù è potente e per lui non c'è distinzione di malattia. Lui è più grande, amen? Quindi se tu hai bisogno di preghiera, io voglio invitarti a venire avanti, voglio invitarti a venire avanti in fede, a credere che quel Gesù è interessato a liberarti, a guarire oggi come ha fatto 2000 anni fa, e vogliamo pregare per te. Mentre cantiamo magari questo coro, tutte le persone che hanno bisogno di guarigione in questa sala, vogliamo pregare per voi, quindi venite avanti.